9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, un saluto a voi tutti questo venerdì 29 aprile 2011, calendario liturgico Santa Caterina da Siena, una delle grandi sante nazionali insieme a San Francesco, scelta di coerenza quella della sua vita accesa di un grande fuoco. E questa trasmissione perché inizia come al solito, lo faccio spesso, come sapete lo faccio perché mi pare che comunque per chi creda come per chi non creda le tradizioni da questo punto di vista siano un punto di vista inevitabile di cui tenere presente. Veniamo tutti da una grande matrice culturale che è quella giudaico-cristiana, è la sintesi dell'Occidente. Abbiamo alle nostre spalle anni di dibattito in cui la parte laica, nella quale io sono cresciuto tra l'altro come cultura e tradizione, in Europa come in Italia ha detto sì, però non possiamo ridurre a questo la matrice occidentale, il dibattito su richiami mancati nella Costituzione europea. Perché richiamo tutto questo? Perché la trasmissione di oggi abbiamo deciso di dedicarla in una maniera un po' anomala, per così dire, un po' singolare, alla beatificazione di Giovanni Paolo II. La beatificazione di Giovanni Paolo II avviene domenica, come sapete sarà un grande evento, un evento che anche Radio 24 coprirà fin dalla mattina con uno speciale che poi andrà in replica pomeriggio, e nella mattina i colleghi di Radio 24 dalla Piazza San Pietro e dalle parti diverse di Roma seguiranno in diretta e vi racconteranno con i propri occhi, con le proprie labbra, la propria testimonianza di quello che avverrà, perché affluiranno pellegrini e fedeli fermissimi nel culto del Papa che verrà beatificato, come sappiamo, una figura carismatica che è stato riferimento fortissimo e ha cambiato, questo è il mio giudizio personale, la storia del mondo per la forza con cui carismaticamente ha saputo unire la propria missione alla capacità nuova di comunicarlo ai giovani come quattro angoli del mondo, una situazione in cui il mondo era spaccato, che ha dato un contributo incredibile, non politico ma spirituale, alla caduta del muro, essendo cresciuto in un paese sotto il tallone sia nazista che comunista. Ma detto tutto questo, il motivo per cui abbiamo deciso oggi, e per questo ho fatto il richiamo laico, di affrontare questo tema, non è solo quello che sentirete poi raccontare nello speciale di Radio 24, come avete iniziato a leggere e ad ascoltare in tutti i media, che sono pronti a quello che ha tutte le caratteristiche per essere un evento mondiale. Ci si aspetta nella diretta televisiva di superare il miliardo di persone in tutto il mondo. No, lo abbiamo deciso di fare per dare voce a un dubbio, per così dire, che c'è chi solleva nella società italiana, nel dibattito pubblico italiano, e che naturalmente, avvicinandosi a un evento come questo, per una consuetudine così di compostezza, verrebbe spontaneo tendere a evitare invece che a dargli la parola. E qual è questo dubbio? È il dubbio della parte appunto laica, intransigentemente laica, convinta che in Italia continui a esistere un problema molto forte di mancata soluzione in equilibrio e compostezza di quella che un tempo si chiamava la questione romana, che è stata una questione fondamentale risolta per decenni all'atto della nascita dell'unità di questo paese, di cui celebriamo 150 anni. Ma tutti sappiamo che a sciogliere il problema di Roma si arrivò poi nel 1870, ma che poi per decenni rimase aperto, le porte della nobiltà nera rimasero chiuse a Roma, c'era l'interdetto, per così dire. Bisognerà arrivare al patto Gentiloni prima, e quindi siamo già, scusate, continuo a essere influenzato, e arrivare quindi al giolittismo e al Novecento inoltrato, e poi ai patti lateranensi, ai discussi patti lateranensi con l'uomo della provvidenza, Benito Mussolini, per arrivare poi al nuovo concordato invece negli anni di Craxi, a metà degli anni Ottanta, dopo lunghi anni in cui la Repubblica aveva attentamente vagliato insieme a Oltretevere come aggiornare uno strumento concordatario nell'ambito di principi costituzionali nei quali libertà di culto piena andava ordinata e dispiegata con il riconoscimento, e quindi anche con intese con altri culti, oltre a l'ex ex religione di Stato. Però lo sappiamo benissimo, le polemiche per esempio sugli insegnanti di religione, sul ruolo che si hanno, su chi li sceglie, sulla chiesa, sulla scuola pubblica e quella privata, dove incessantemente la parte laica dice anche questo governo in realtà piega il ginocchio di fronte alle esigenze della scuola privata che è solo cattolica o pressoché prevalentemente cattolica, e mentre si taglia la scuola pubblica. Polemiche di cui io nella mia formazione molto spesso non mi ritrovo assolutamente più, anzi io penso la scuola privata contribuisce alla ricchezza dell'offerta concorrente, io sono perché scelgano le famiglie il voucher del denaro in pubblico, quindi figuratevi un po', non credo affatto che esista più una questione di crocifisso, una questione di scuole cattoliche, posso sbagliare, e però abbiamo deciso di dedicare questa trasmissione a chi in maniera netta, esplicita e tagliente dice no, guardate, anche domenica di fronte a questa personalità straordinaria, alla maniera in cui ha saputo riproporre, rilanciare, riradicare nella testa, nel cuore, nella mente della gente il messaggio cristiano ed evangelico, noi diciamo no, qui c'è qualche cosa evidentemente che è fuori posto, perché c'è un ruolo di tutto ciò che è pubblico, di tutto ciò che è lo Stato nel nostro paese, che piega il ginocchio e sbaglia rispetto a ciò che dovrebbe, che naturalmente è il grande rispetto ma non la commistione. E per questo nella prima parte della trasmissione abbiamo deciso di dare voce a chi ieri per esempio ha risollevato questa questione, poi vedrete nella seconda c'è chi lo solleva per così dire sistematicamente, anche in questo caso chi parla adesso e vi presento lo solleva sistematicamente, ma lo ha fatto precisamente in vista della cerimonia di domenica. Abbiamo con noi quindi Mario Staderini, che è il segretario dei Radicali Italiani. Buongiorno e grazie Staderini. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. E come contraltare, e mai termine fu più adatto, secondo me oggi abbiamo Luigi Amicone, che è il direttore del settimanale Tempi. Grazie, buongiorno Luigi. Buongiorno, buongiorno. Staderini, allora, in che cosa la cerimonia di domenica, i suoi preparativi, la maniera in cui avverrà, l'ha indotta a dire quello che sta dicendo in questi giorni? Perché? Ma innanzitutto la ringrazio per la premessa che mi permette di poter superare molte spiegazioni iniziali. E il riferimento a cui io ieri, devo dire dopo giorni di silenzio, ho ritenuto necessario fare è non tanto all'evento religioso, che è un evento in quanto tale non solo rispettabilissimo, ma anche da auspicare che ci sia religiosità nelle persone e nella nostra società, quanto invece l'utilizzo che ne viene fatto a fini, diciamo, tutti mondani, sia da parte vaticana sia da parte italiana. Io ho parlato di una beatificazione di Stato rispetto all'appuntamento del 1° maggio, perché in questo si è trasformata a causa proprio di quello che possiamo vedere a Roma chi gira per le strade e in Italia chi guarda la televisione. Noi abbiamo avuto in questi giorni una affissione di gigantografie in stile sovietico, ripetitivo veramente da altri tempi, in stile Bulgaria anni 60, dell'immagine di Papa Giovanni Paolo II per tutta la città, per avere poi invece nell'intero etere televisivo uno spazio abnorme, peraltro a senso unico, in maniera neanche troppo agiografica, ma proprio legata a dover confermare alcuni punti del pontificato di Giovanni Paolo II su radio e televisioni pubbliche. Quella che a mio avviso risulta essere una mercificazione dell'immagine di Giovanni Paolo II che non ha precedenti negli ultimi decenni della Chiesa Cattolica e comunque dello Stato italiano, e ha a mio avviso due responsabili principali. Da una parte il Vaticano, che anche per sua stessa missione, lo ha detto Benedetto XVI, utilizza questa popolarità indubbia, indiscussa, questa grande umanità di Giovanni Paolo II per ripulire l'immagine di un Vaticano che ormai è considerato nel sentire comune come un luogo di potere e come un luogo di scandali, pensiamo a quelli della pedofilia ma anche a quelli finanziari. Dall'altra il sindaco Alemanno, che è in evidente crisi di consenso, cerca di coprire questa crisi chiedendo, diciamo cercando ancora di più di essere il referente in vista di future, diciamo, crescite politiche di lui stesso rispetto all'Oltretevere in cui si vuole accreditare. Ecco, io ho parlato proprio per questo, essendo anticlericale per religiosità, io ho una formazione francescana non a caso non c'è un Papa che si chiama Francesco, io ho cercato di fare riferimento proprio biblico ai mercanti nel Tempio, a quelli cioè che lo stesso Gesù cacciò fuori dal Tempio perché lo utilizzavano al di fuori. È questo il punto che ho provato con questo comunicato di ieri a far porre in evidenza, perché effettivamente l'evento religioso è ormai del tutto coperto e superato da queste cose. Poi c'è la figura di Papa Giovanni. Aspetti, alla figura ci arriviamo, perché ancora una cosa su, siccome la formula beatificazione di Stato è una formula, naturalmente lei fa politica da tempo, di una persona esperta, è una formula che immagina, che suscita come reazione quella che vi sia, non voglio dire una macchinazione, ma insomma una convergenza di interessi nella scelta delle cose, nella maniera in cui vengono apposte al centro del dibattito pubblico. Lei dice anche la maniera in cui i media poi decidono di farlo, perché evidentemente ritengono che i loro ascoltatori, lettori, eccetera, eccetera, Tifino, non quelli del servizio pubblico. Non quelli del servizio pubblico, d'accordo. Allora, però, nella parte in cui dice beatificazione di Stato, la parte per così dire politico-istituzionale, siccome non credo che si possa immaginare che il 1° maggio è una data scelta concordandola con le autorità politiche italiane, no? No, mica è stata concordata, però. Allora, si trova di fronte a quello, o lei pensa che la Chiesa ha scelto apposta per evitare, non credo, o sì? Ma allora, rispetto alla scelta del 1° maggio, io ritengo che è stata una scelta, anche qua, allora parliamo di rapporti tra Stati, sì. Probabilmente avrebbero dovuto prima chiedere, almeno consultare la città di Roma e lo Stato italiano per capire se creavano dei problemi, visto anche il particolare afflusso di gente che ci sarà il 1° maggio e il significato storico-politico. Credo che magari non la parte che organizza il 1° maggio, ma quell'altra potrebbe magari essere stata d'accordo. Però io adesso non mi metto a dire cose che non so, io ignoro se ci sono stati contatti riservati, contatti organizzati. Non lo so, però insomma, per il mio mestiere, per come ho commentato in cinque come la Laborum Exercens, non mi stupirei neanche se la Chiesa avesse detto, ma a maggior ragione, visto che è un Papa che sul lavoro, l'impresa, i valori etici del lavoro e dell'impresa è stato uno dei tronconi fondamentali delle sue diverse 14 encicliche, magari la Chiesa ha pensato anche che non è che creasse un problema, che fosse una cosa aggiuntiva, o no? Ma potrebbe essere, lo chiederemo magari proprio a chi se n'è occupato. Va bene, allora, lei sa che? No, io so che di fatto poi è una situazione molto italiana, cioè noi vedremo, poi ne parleremo probabilmente, non è che ci sarà questo grande arrivo internazionale per un qualcosa e poi andiamo al sodo, la beatificazione di Giovanni Paolo II, cioè Giovanni Paolo II è santo per fede dei fedeli, non perché come 500 anni fa bisogna ritrovare il finto miracolo e c'è la fabbrica dei No, dati. Adesso finto miracolo non lo so, però che sia santo subito e queste erano prima ancora, è noto, cioè abbiamo tutti partecipato da spettatori o da attori a quel colossale evento che è stata l'attesa della morte, lunga e con grandissimo impegno fisico fino allo stremo di Giovanni Paolo II. È vero che c'era una parte della cristianità che diceva santo subito da prima, addirittura che morisse. Detto questo, poi la Chiesa procede con i suoi riti e tutto quello che fa parte, insomma, del suo canone. Ma ancora, prima di arrivare a Giovanni Paolo II, sentiamo Luigi Amicone per la parte invece che riguarda il coinvolgimento pubblico istituzionale italiano intorno alla modalità, alla scelta, al giorno. C'è secondo lei quello di cui ha parlato Staderini? No, ma innanzitutto io credo che siccome non esiste uno Stato di qualcuno o neutro, credo che uno Stato sia o l'espressione reale di un popolo con le sue componenti e quindi con i pesi che nella realtà delle diverse componenti. Ora, con rispetto dei radicali che hanno mancato secondo me un'occasione, perché sarebbero ricordato anche l'amico Marco Pannella la grandezza di vedute e l'apertura di un Papa che lo ha accolto pur sapendo che i radicali aspirano e vorrebbero che la Chiesa scomparisse come istituzione, perché sarebbe quello l'obiettivo fondamentale di questo tipo di laicità, secondo me negativa, sbagliata, ma comunque sia, hanno perso l'occasione di partecipare a una festa di un uomo che ha accolto, ricordo appunto Pannella, ricevuto personalmente da Giovanni Paolo II sul tema della fame nel mondo, che ha accolto un nemico giurato dello stesso cattolicesimo. Benissimo. Ma questa ingenerosità è sbagliata, secondo me, si sarà qualcosa di negativo innanzitutto per i radicali, ma poi questo filone cosiddetto francescano della mercificazione è un filone antichissimo che viene dalla storia dell'Iscariota, che nel momento in cui l'amica Maria lava i piedi con il profumo costoso e Gesù dice ma questo profumo costoso non si poteva vendere e poi dare ricavato ai poveri, e il Vangelo dice dicevano così perché Giuda era ladro e bugiardo. È un filone questo eretico che appunto nega la possibilità di festeggiare, di avere simboli, segni, dare al popolo la soddisfazione, il gusto di calcare le strade e di vedere questi grandi manifesti, poster, perché sono espressione di una giusta, grande devozione. Lo vedremo domenica quando milioni di persone cancelleranno questa inimicizia, che è un'inimicizia sbagliata secondo me, perché il Papa appunto ha aperto le porte veramente a tutti di qualunque pensiero, anche ai propri oppositori. Basta pensare il gesto rispetto a Agcia, che non è stato un gesto naturalmente propagandistico, ma viene dalla radice del cuore di questo Papa e della Chiesa, e anche qui il Vaticano ha un suo profilo politico internazionale che sappiamo, ma il Santo Padre Giovanni Paolo II è il Papa, cioè il simbolo e il rappresentante della Chiesa, le istituzioni e popolo nella storia del cattolicesimo si identificano con tutti i limiti degli uomini che sappiamo e che vediamo nelle cronache dei preti. Sono anch'io un anticlericale, ma un conto l'anticlericalismo che ha come obiettivo quello di distruggere l'essenza della Chiesa, che è fatta anche di istituzioni, come tutti sappiamo, il Partito Radicale è fatto di un pensiero, nella sua dimensione è fatto di un pensiero, di una visione, ma anche di istituzioni precise, di segni, simboli anche molto terreni, no? Anzi, c'è chi dice che ha un Papa che è sottoposto a meno vincoli ancora di quanto non avvenga in curia di quello della Santa Romana Chiesa. Appunto, quindi se dobbiamo fare delle osservazioni, forse dobbiamo fare osservazioni nella micragnosità con cui qualcuno ha colto invece un'occasione di festa, di popolo e di, vorrei anche dire dal punto di vista laico, di ricchezza, perché milioni di persone a Roma vuol dire in questo momento storico anche che non va, diciamo, di crisi, ringraziamo il cielo di questo fatto e di questa festa provvidenziale, che ci si creda o non ci si creda. Va bene, quindi la risposta di Amicone dice no, questa commissione propria non c'è, è una grande cosa di popolo. Però Sederini, facciamo un passo avanti, perché l'ho fermata prima quando lei stava entrando poi nel merito del personaggio Giovanni Paolo II, quindi nel significato che per la Chiesa rispetto al mondo e rispetto anche al dibattito pubblico, ciò che viene inevitabilmente toccato nella dottrina sociale, in quella etica, bioetica, eccetera, eccetera, ha la scelta di Giovanni Paolo II, e quindi l'ho fermata lì, e quindi la prego, qualche considerazione su questo. Sì, in premessa mi permetto solo di rispondere al direttore Amicone rispetto a una imprecisione. Noi radicali non chiediamo e non cerchiamo la distruzione della Chiesa Cattolica. No, è importante. Noi distinguiamo la Chiesa Cattolica dal Vaticano, che è uno Stato, che è un ente politico. Noi sicuramente vogliamo il superamento dello Stato Città del Vaticano. Forse per noi lo toglieremo come in quanto Stato, ma la Chiesa Cattolica, lunga vita e altro. E proprio perché rispettiamo Papa Giovanni Paolo II, rispetto alla sua grande storia umana, quella che ha ricordato bene Amicone, lo ha visto ricevere in Piazza San Pietro Marco Pannella e Mabonino per la fame nel mondo, per bloccare lo sterminio della fame nel mondo, vorremmo che fosse rispettato proprio e non utilizzato a fini politici o da Alemanno o da chi per loro. E poi non esageriamo con i milioni di persone, poi alla fine vedremo anche i numeri, perché la gente ovviamente non è scema, non ha bisogno della beatificazione in quanto tale per ricordarsi la grandezza di Giovanni Paolo. E proprio rispetto a questo, non c'è dubbio che Giovanni Paolo II ha innovato rispetto alla storia della Chiesa, è stato definito il Papa Rockstar per la sua capacità di andare in giro e trovare grandi masse. Io credo che debba essere ricordato, oltre per il ruolo politico, come lei ha indubbiamente ricordato nella premessa, per la grande forza umana che è quella che gli garantisce una popolarità. Però al tempo stesso io ho una simpatia proprio umana nei confronti di Giovanni Paolo II, pur sapendo che per quanto riguarda le la sua catechesi, mettiamola così, c'è la massima distanza. Infatti, ma credo che la distanza tra la catechesi di Giovanni Paolo II non è solo rispetto a noi radicali, ma rispetto allo stesso popolo dei fedeli. Cioè, lui è stato il Papa che è stato più attivo proprio a dare una condanna dell'aborto, ricordandolo subito dopo, collegandolo anche al genocidio ebraico e parlando di un vero e proprio genocidio di chi appunto è responsabile dell'aborto. Però poi al tempo stesso ha continuato rispetto alla Chiesa, ad esempio, la mia accusa, io da cristiano, quella di aver messo da parte, fatto scomparire il ruolo della donna, pensiamo anche alle stesse suore all'interno della Chiesa Cattolica, ha delle responsabilità anche storiche rispetto al non aver saputo fermare lo scandalo di pedofilia, gli scandali finanziari con lo IOR, l'aver fatto una repressione abbastanza dura di quella che era la teologia della liberazione in Sud America e in particolare, dal punto di vista politico posso dirlo, una sua crociata contro tutto quello che era di democrazia liberale, parole forti le ricordo dette proprio lì in Polonia, e contro quello che era l'illuminismo, probabilmente avendo un'influenza forte di quello che poi è stato il suo successore, Benedetto XVI, ma vorrei ricordare proprio la distanza da questo punto di vista, come sia possibile molto spesso amare una persona, come lo abbiamo fatto anche noi radicali, pur essendo in disaccordo con i suoi contenuti. Durante il grande evento a Tor Vergata, che c'erano 1 milione di giovani, il Papa parlava da lì davanti contro l'amore libero, contro appunto l'aborto e contro la contraccezione, e poi furono ritrovati il giorno dopo dagli stessi ragazzi che erano lì là tantissimi preservativi. Cioè, per far capire come molto spesso bisogna distinguere i ruoli. Allora, Sadeli, io adesso devo andare in pubblicità, ricordo a tutti però che io in piccolo, io non voglio, oggi faccio solo le domande, però a me ha cambiato la vita questo pontefice, io non posso fare a meno di ricordare il brivido, l'ho fatto in pubblico più volte, ho ricordato che cosa ha significato per me, l'impatto un po' personale con lui, casuale ma profondissimo. Ricordo sempre che cosa ha significato per me leggere la Centesimus Annus, i passi di quella circa dedicati alla libertà dell'impresa e al mercato, che ancora oggi a volte mi stropiccio gli occhi, perché quelle pagine sono pagine incredibili che neanche i liberali storici scriverebbero in quel modo, e mi sembrò che ci fosse veramente l'alito della storia. Avete presente quello che Hegel descrive nella mitica pagina in cui sta seduto, c'è la finestra aperta, lui sente, prima di vederlo o di sentirne il rumore, sente che sta passando Napoleone e dice che è lo spirito della storia. Ecco, queste cose secondo me Giovanni Paolo II le ha rappresentato. Sono l'ultimo a dirlo e qui finisce la mia testimonianza, perché ne ho parlato altre volte, ma adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo con un altro campione di chi sostiene ancora più duramente, se possibile, di Staderini, che c'è un problema aperto molto grosso e molto serio di fronte alla Chiesa Cattolica in Italia, e non bisogna scambiarlo per la grandezza di Giovanni Paolo II, perché è un problema molto serio, perché avremo con noi Paolo Flores Tercaisi, il direttore di Micromega, il cui numero in edicola è un numero tutto d'assalto contro la cosa che ci tiene domenica, cioè la beatificazione. Pubblicità. Ci tornati in studio, stiamo occupandoci della beatificazione di domenica di Giovanni Paolo II, ma lo abbiamo fatto scegliendo deliberatamente di aprire una finestra dando voce a chi critica esplicitamente, in nome di una tradizione culturale, in nome di una polemica istituzionale e politica che è radicata in realtà nella storia di questo paese, minoritaria, molto minoritaria, ma radicata con argomenti solidi che non si appuntano solo sulla personalità, sul significato, l'impatto storico, sulla carismaticità di Giovanni Paolo II, ma sono un refreno, un filo continuo, minoritario, ma della storia irrisolta e di mancato composto equilibrio del nostro paese. E per questo quindi abbiamo deciso di iniziare con Mario Staderini, il segretario dei radicali italiani, che ci ha spiegato perché ieri ha detto no, guardate, questa è una beatificazione di Stato. E in questa seconda parte della trasmissione abbiamo con noi il direttore di Micromega, Paolo Flores Tercaisi. Il numero di Micromega in edicola è un numero esplicitamente, dal titolo proprio programmaticamente, volto a risollevare punti critici e polemici nei confronti di una cerimonia come la beatificazione di Giovanni Paolo II e nei confronti del pontificato e del pontefice stesso, che viene elevato al culto dei credenti. Allora, buongiorno e grazie Paolo Flores Tercaisi. Buongiorno a lei. Che cosa in definitiva la convince di meno, essendo noto ed evidente ai nostri ascoltatori come la pensa e come Micromega da sempre su questi temi, difensore e sostenitore di una intransigenza laica di fronte al problema irrisolto, insomma, nel nostro paese tra Stato e Chiesa secondo lei? Ma che cosa di questa beatificazione e di questo Papa la convince meno di tutto? Ma il volume speciale di Micromega si intitola Karol Wojtyła, il grande oscurantista, e i vari saggi, alcuni anche di personalità cattoliche, e le varie tavole rotonde affrontano quindi la figura di Wojtyła in quanto personalità geopolitica che ha avuto un ruolo importantissimo, diretto o indiretto, in fenomeni come la caduta dei comunismi che segnano la fine del secolo. Per quanto riguarda la questione della santità, ovviamente è una questione che riguarda i fedeli, non un ateo come me, per cui nella rivista riportiamo due interventi di due eminenti cattolici. Uno è Hans Küng, che a tutt'oggi credo sia il più importante teologo cattolico, anche se la Chiesa ufficiale lo ha bacchettato spesso. L'altro è Dom Franzoni, che molti scrivono Don come fosse un parroco, invece Dom significa Dominus sì. Perché era, è stato l'abate di San Paolo fuori le mura, il suo titolo equivale a quello di un vescovo e come tale infatti ha partecipato al Concilio Vaticano II, credo che ormai sia uno dei non molti padri conciliari ancora in vita. E Don Franzoni ha fatto una testimonianza presso la Congregazione per le Beatificazioni. E un tempo esisteva nella procedura la figura dell'avvocato del diavolo che doveva cercare tutte le prove contro il beatificando. A contraris, infatti, sì. Sì. Ora non esiste più questa figura, però Don Franzoni ha portato la sua testimonianza facendo notare tutti i vari momenti del pontificato di Carlo Wojtyła in cui secondo lui si viola una o più delle virtù, le sette virtù, quattro cardinali e tre teologali, che per diventare beati o santi bisogna aver praticato fino all'eroismo, questo dice dicono le procedure canoniche. E una di questi casi di non pratica delle virtù è, secondo Don Franzoni, il caso Romero. Romero fu lasciato solo da Karol Wojtyła, fu ostentatamente lasciato solo. Aspetti, ricordo solo per gli ascoltatori e far capire per chi non se lo ricordasse al volo, stiamo parlando dell'arcivescovo di San Salvador che finì vittima poi degli squadroni della morte. Sì. E per il quale varie personalità della Chiesa dell'America Latina avevano chiesto che fosse fatto cardinale, e sicuramente questo avrebbe scoraggiato gli squadroni della morte, che poi erano legati, come sappiamo, o al regime o addirittura alla CIA o a entrambe queste forze. E invece padre Romero, Monsignor Romero fu esplicitamente lasciato solo e quindi poi fu assassinato. L'altro caso è quello di, riportato da Küng, di padre Mathiel, il fondatore dei Legionari di Cristo, che di recente è stato condannato dalla Chiesa per volontà di Ratzinger in quanto pedofilo e per una serie di crimini sessuali gravissimi, ma le accuse contro Mathiel cominciarono ad arrivare in Vaticano nell'ultima parte del pontificato di Paolo VI addirittura, quindi lungo tutto il pontificato di Karol Wojtyła, mi sembra 27 anni circa, Karol Wojtyła ebbe modo di vedere le accuse che si moltiplicavano sempre più circostanziate e rifiutò fino all'ultimo di prendere in considerazione queste accuse. Negli ultimi anni portatore di queste accuse della loro serietà si era fatta addirittura Ratzinger, e il candidato Schönbern, arcivescovo di Vienna, di recente ha fatto capire che vinse la curia contro Ratzinger, vinse la curia perché Wojtyła così voleva ed era che bisognava difendere. Perché questa difesa d'oltranza? Perché i Legionari di Cristo erano stati l'esercito del Papa nella sua lotta contro la teologia della liberazione e tutti i fermenti della Chiesa in America Latina legati alla teologia della liberazione. Allora, io la fermo un secondo perché, come avete visto, una sintesi, e come tutte le sintesi purtroppo non può enumerare e diffondersi troppo, però avete capito, Paolo Forsterkais con il numero che è in edicola, per chi volesse approfondire, insomma, trovate argomenti anche interni, totalmente interni all'articolazione, alla dialettica cristiana, da chi è convinto che questo è stato un papa oscurantista, reazionario nella materia sociale per le sue scelte troppo nettamente contro la sinistra, nella materia etica e bioetica, nella materia sessuale, eccetera, eccetera. E oltre a tutto questo, poi naturalmente ci sono i classici, tradizionali argomenti sull'eccesso di commissione tra Stato e Chiesa in Italia, anche se a dire la verità Giovanni Paolo II è il papa che ha fatto fare uscire la Chiesa italiana, insomma la Chiesa universale, poi la Chiesa italiana la c'è un'altra cosa, ma insomma l'ha fatto uscire dall'identificazione con un partito politico, e questo poi è un fatto storico. Comunque la si possa pensare su poi come il Cardinal Ruini, capo della CEI, ha declinato questa cosa poi nell'Italia del bipolarismo. Sentiamo rapidissimamente un po' di ascoltatori, ce ne sono tantissimi a dire la verità, però ne sentiamo solo un po' adesso fino alla fine delle informazioni stradali, per poi tornare alle risposte di Amicone e ad alcune considerazioni conclusive dei nostri ospiti. Iniziamo con Pietro che ci chiama da Roma. Prego Pietro. Buongiorno a tutti. Io sarei d'accordo con Staderini, nel senso che i politici non perdono mai l'occasione per utilizzare queste situazioni, anche la beatificazione in questo caso, per risolvere problemi, insomma, di crisi. Io parlo di politici italiani. Sì, ho capito. Cioè, lei dice la parte delle che Staderini illustrava come beatificazione di Stato quando diceva Alemanno e così via, per capirci. Assolutamente sì. E non perdono mai l'occasione per fare una bella figura nei confronti del popolo. Ecco, e utilizzare queste cose in questa maniera è sempre una cosa, secondo me, negativa. Che poi si può ritorcere contro, a differenza di quello che diceva Amiconi, insomma, non credo che si ritorca contro i radicali. Grazie a Pietro da Roma. Sentiamo Silvio che ci chiama da Monza. Prego Silvio. Buongiorno, io volevo dire due cose. Una che mi era venuta in mente prima, una che mi è venuta in mente ascoltando il secondo ospite. Sì. La prima è che io sono un cittadino italiano, pago tutte le tasse, adempio ai miei doveri istituzionali, eccetera, eccetera. Per accidenti sono anche cattolico. Sì. Io credo che come per lo accidente, Stato italiano, voglio sperare che sia per accidente, non per accidenti, ma comunque va bene. Per accidente anche cattolico. E allora? E come lo Stato italiano giustamente protegge e difende tutte le istanze dei non cattolici, non capisco perché dovrebbe fare un'eccezione particolare solo per i cittadini cattolici, che peraltro sono una grande minoranza. Cioè, per i cittadini cattolici devono essere cittadini di serie B, per loro non ci devono essere nessuna organizzazione di grandi eventi, eccetera, eccetera. Ogni volta che lo Stato aiuta l'organizzazione di qualcosa del genere, è di parte, cioè non capisco perché la lei dice, in sintesi, per fare un esempio, anche se lei non l'ha fatto, quindi forse è un po' fuori luogo, ma mi dica se è fuori luogo o meno, come quando si tratta di fare la gay parade a Roma è un problema, se poi i cattolici vogliono unirsi a Roma per beatificare il loro grande papa diventa un problema, è questo? Esatto, la stessa roba. Cioè, oppure c'è la cosa del 1° maggio che a me sta benissimo perché lavoro anch'io, no? Non c'è nessun problema, viene fuori l'organizzazione della santificazione di beatificazione del Papa, è un problema, cioè, anche va perché bene. Lo Stato significa che debba essere... Chiarissimo, lei dà voce a quelli che dicono che è diventata una grande minoranza, statisticamente è così, una grande minoranza, seppur maggioritaria nei culti, quella dei cattolici nel nostro paese, e paradossalmente finiscono quasi per essere additati come il problema, invece che... Ecco, questo è un altro punto di vista che c'è nel dibattito italiano, c'è in quelli che dicono, guardate qui, la laicizzazione, la secolarizzazione è andata così avanti che noi quasi fatichiamo perché veniamo additati come il problema. Sentiamo ultimo rapido, mi scuso per chiedere rapidità a tutti, Vincenzo che ci chiama dalla provincia di Roma. Prego Vincenzo. Buongiorno a tutti. Io volevo semplicemente sottolineare, non vedo tutto questo problema nella beatificazione del Papa. io la vedo più che altro una festa che dovrebbe unire la nazione, non vedo tutti questi problemi, questi distinguo, che ogni cosa che si fa in Italia sembra sempre che ci debba essere un distinguo per dire questo no, quello no, però si potrebbe fare. È una festa, questo Papa è rimasto nella storia, rimarrà nella storia, ha fatto delle cose eccezionali. Basta, la vedo così, in maniera molto semplice, sarà anche la mia idea. Va bene, grazie Vincenzo, dice, non eccedete in polemica. Informazioni sulla circolazione stradale e poi torniamo con i nostri ospiti. Eccoci tornati e chiedo quindi a Luigi Amicone di dare una risposta. Gli argomenti di Paolo Flores d'Arcais e del rumore del Micromega sono quelli che abbiamo ascoltato. Come risponde dentro di tempi? Beh, naturalmente la questione sono tutte ampiamente dibattute e dibattibili. Suang Skung, che fu un teologo cattolico fino a che appunto venne proprio dall'autorità della Chiesa Cattolica invitato a non più dichiararsi teologo cattolico, e gli fu ritirato l'insegnamento da teologo cattolico all'Università di Tubinga, e chiaramente lui può dire quello che vuole e proclamarsi cattolico, però di solito è evidente, no? Cioè se ci si dichiara cattolici non si può non, siccome il cattolicesimo ha come riferimento il Papa, la gerarchia, la congregazione, la dottrina della fede, eccetera, uno appunto, Kung è un libero pensatore di una chiesa sua immaginaria e quindi si colloca oggettivamente nella parte della teologia liberale del protestantesimo, ma di fatto è fuori dalla Chiesa Cattolica come insegnamento. La Chiesa Cattolica, perché è l'unica che può autorizzare, evidentemente, come analogamente in altre istituzioni, non basta dirsi, bisogna essere riconosciuti oggettivamente. Quindi Don Franzoni allo stesso modo ha partecipato sì con un ruolo nel Concilio Vaticano, ma poi di fatto la sua posizione è stata dichiarata dalle autorità legittime della Chiesa Cattolica, appunto analoga a quella di Kung. Certo, la questione di questo Papa è evidente, ha portato un assalto totale, definitivo direi, a quel pensiero di cui parlava Paolo VI quando disse a Jean Guiton: vedo infiltrarsi nella Chiesa Cattolica lo zolfo di un pensiero non cattolico, ma non prevarrà mai. E Giovanni Paolo II ha esattamente, come dire, il fastidio di Giovanni Paolo II per una certa elite cattolica. Avevo proprio per le mani in questi giorni un dibattito svolto da Giuseppe Lazzati, Dossetti, Scoppola e Leopoldo Elia, che si sa che sono grandi intellettuali cattolici, che proprio negli anni Ottanta dichiararono la loro, come dire, delusione per un Papa che portava l'attacco a una visione, diciamo, del cosiddetto cattolicesimo democratico che ridimensionava l'unicità del messaggio cristiano cattolico, che è quello fondato su Gesù Cristo, e l'integralità di questo messaggio. Bene, Giovanni Paolo II è scomodo perché invece in modo straordinario ha riportato, tant'è che il suo pontificato si apre appunto con la Redemptor Hominis, Cristo centro della storia dell'universo, di fronte a posizioni anche all'interno della Chiesa che invece tendevano a ridimensionare questo messaggio per fare della Chiesa qualcosa che si avvicina molto a un ente umanitario, ecumenico, che scioglie il suo contenuto fondamentale nel pensiero del mondo. Bene, Giovanni Paolo II invece ha dato questa interpretazione forte e legittima del Concilio Vaticano II, che di apertura al mondo, ma secondo un'identità precisa e totale. Ora, si è liberi di contestare questo e naturalmente queste forze che hanno perso storicamente questo grande scontro, che è innanzitutto uno scontro interno alla Chiesa, di trasformarla in qualcosa d'altro che fosse la Chiesa Cattolica, l'hanno persa, e naturalmente queste forze oggi in qualche modo in questa occasione non è una festa per loro, però come abbiamo sentito dagli ascoltatori anche nel sentimento popolare e nel sentimento, diciamo, razionale di chi guarda le cose senza ira e senza risentimento, di fatto questo è il Papa che, se appunto ha dato fastidio perché ha contribuito anche, diciamo, con il grande Reagan ha avuto un ruolo anche politico nella storia di liberare milioni di uomini dall'oppressione, una delle oppressioni più tremende della storia, che è stato il comunismo, questo è chiaro, viene imputato anche questo. Bene, questo è un Papa che rappresenta tutta l'istanza di libertà dei popoli e il sentimento comune di un Papa che ha veramente riportato al centro della Chiesa il messaggio originale di Cristo, okay, evitando ogni deriva, diciamo così, ecumenico New Age. Grazie ad Amicone. Io adesso chiedo per un minuto e mezzo a testa sia a Saderini che a Paolo Sorostarcais una riflessione proprio su quello che dicevo prima. È stato però il Papa rispetto a Paolo VI, ai Papi italiani, rispetto al quale possiamo riconoscere, nella critica di ciascuno, legittima, che comunque ha fatto fare un passo indietro al coinvolgimento diretto della Chiesa come identificata in un solo partito, come era nella Prima Repubblica. Questo è avvenuto secondo voi? È stato un bene, è stato un male, oppure non è avvenuto per niente? Saderini, come la pensa? Ma io credo che sia sicuramente un contesto storico in cui inserire tutto questo. Non si può affidare semplicemente a un Papa. Più che altro io credo che abbia subito quelli che erano gli eventi storici e lo abbia probabilmente anche assecondato, forse intuendo, e su questo devo dire che il Cardinal Ruini ha avuto un ruolo molto più forte di Papa Giovanni Paolo II, peraltro sono per male combaciati i periodi di regno, diciamo, ognuno chi in conferenza episcopale, chi è sul soglio di Pietro. Io credo che Ruini abbia avuto un ruolo maggiore, con l'intelligenza di capire che distribuendo l'influenza dovuta soprattutto al potere economico, al potere finanziario e al potere anche determinato da tutta quella rete che oggi è descritta sull'Espresso, di cui c'è la copertina dell'Espresso, sì, infatti il Vaticano, grazie a quel tipo di potere, l'influenza vaticana, che è un'influenza ormai quasi chiarissimo, lei dice Ruini in realtà ha animato meglio e ha giocato su più tavoli. La domanda a Sorostarcais, però, scusi Sorostarcais, non è la politica, e dico la politica da una parte come dall'altra, che offre una specie di asta competitiva? Perché non è che c'è il diktat che arriva dei cardinali o del Papa e tutti devono staccare sull'attenti. A me sembra che alcune questioni, la bioetica, su cui poi ci si divide sempre, nella bioetica poi quando si è trattato di mettere mano alla legge c'erano gli oltranzisti da una parte e dall'altra a gara a scriverla nella maniera più chiusa sulle staminali e così via. Mica era la Chiesa che mandava le guardie svizzere, non è la politica italiana che si è emendata meno, piuttosto di quanto non si sia emendata dalle proprie influenze la CEI e la Curia d'Oltretevere. Lei che pensa? È ovvio che quando dei politici, invece di difendere i valori della Costituzione, si esercitano nel bacio della pantofola al Sommo Pontefice e sono colpevoli, e la responsabilità non è del pontefice che chiede il bacio della pantofola, ma di chi da chi esercita questa servitù volontaria. Ma ad Amicone vorrei dire che il fatto che questo Papa abbia contribuito a liberare l'Europa dal comunismo non solo non fa paura, è l'unico effetto collaterale positivo, io l'ho scritto proprio così, di un papato all'insegna dell'oscurantismo, perché questo papato ha fatto risalire tutti i disastri della modernità, nazismo, comunismo, eccetera, all'illuminismo, cioè questo è il carattere oscurantista di questo Papa. E qui c'è la polemica, per cui i laici dicono quando lui dice relativismo uguale illuminismo è una mistificazione. Per la politica in quanto tale, questo è il Papa che sulle vicende italiane ha impedito che lo Stato italiano potesse interrogare Monsignor Marcinkus e questo è uno dei e non è che ha lasciato a Ruini di occuparsi delle cose e quindi le colpe sono di Ruini. No, certo, è stata una scelta. E insieme hanno fatto una scelta dal loro punto di vista oscurantista molto intelligente, non più appoggiarsi su un partito confessionale come ma fare l'asta competitiva tra più, e questo è evidente. Come sentite, gli argomenti polemici e le critiche ci sono, noi apposta abbiamo aperto i microfoni a questo. Detto questo, io sono da questo punto di vista un laico che ha cambiato idea. Io credo nello Stato, nelle istituzioni laiche, credo però che la Chiesa, i cristiani, insomma, insegnare il Papa a fare il Papa mi pare sempre molto complicato e soprattutto sbagliato. Giovanni Paolo II per me è stata una figura strepitosa, come tutte sottoposte a critiche all'interno del suo mondo, all'interno di ciò che i credenti e non credenti possono ritenere però un Papa strepitoso. Detto questo, Radio 24, domenica, programmazione speciale per la beatificazione, alle 8.15 al posto del reportage andrà in onda uno speciale realizzato da Katia Caramelli, poi dalle 9 alle 12 uno speciale in diretta con Deborah Rosciani, Anna Migliorato, tanti colleghi che racconteranno dalla piazza di San Pietro e dagli studi di Roma e di Milano quello che ascoltano, vedono e i commenti di quello che avverrà. E poi nei giornali radio del giorno e alla sera in replica, Voci d'Impresa, un ultimo speciale alle 20.15. Domenica questo dedicheremo Radio 24 alla beatificazione di questo grande Papa Giovanni Paolo II. Grazie ai nostri ospiti di oggi, grazie a voi, linea al giornale radio.